369. Arista. Si chiama Arista in Toscana la schiena di maiale cotta arrosto o in forno e si usa mangiarla fredda, essendo assai migliore che calda. Per schiena di maiale si intende in questo caso quel pezzo di lombata che conserva le costole e che può pesare anche 3 o 4 chilogrammi. Steccatela con aglio, ciocche di ramerino e qualche chiodo di garofano, ma con parsimonia, essendo odori che tornano facilmente a gola, e conditela con sale e pepe. Cuocetela arrosto allo spiede, che è meglio, o mandatela al forno senz'altro e servitevi dell'unto che butta per rosolar patate o per rifare erbaggi. È un piatto che può far comodo nelle famiglie, perché d'inverno si conserva a lungo. Durante il concilio del 1430, convocato in Firenze, onde appianare alcune differenze tra la Chiesa romana e la greca, fu ai vescovi e al loro seguito imbandita questa pietanza, conosciuta allora con altro nome. Trovatala di loro gusto, cominciarono a dire «Arista, arista, buona, buona!» E quella parola greca serve ancora, dopo 4 secoli e mezzo, a significare la parte di costato del maiale cucinato in quel modo.